Blu Radio Veneto. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Ora ben trovati da Mirko Cavallini in studio, dai didaici in regia, nel nuovo appuntamento con il mondo della scuola. Abbiamo un ospite che ritroviamo dalla settimana scorsa e uno nuovo, Don Edmondo Lanciarotta, bentornato. Bentrovati a tutti voi. Vuoi presentare tu il nostro Lo presento perché è un mio carissimo amico, tra parentesi, ma specialmente è collaboratore del preside dell'Istituto Duca degli Abruzzi. Il professor Angelo Visentin, esperto in tecnologie didattiche, e quindi allora oggi parleremo di una sigla LIM, perché qualcuno sbaglia anche nell'IRE. Allora diamo subito la parola, intanto lo ringraziamo della sua disponibilità e ci presenta insieme con te, Mirko, ecco, questa nuova modalità di fare scuola, di vivere a scuola, di essere a scuola oggi. Grazie e benvenuto intanto, professore. Sì, saluto a tutti gli ascoltatori e grazie a voi dell'invito. Capire che cos'è una LIM, per chi non ha mai visto una LIM. Sono fermo ai gessetti. Ai gessetti, ecco, tutt'altra cosa. Brevemente, è composta da un pannello 2 metri abbondanti per 1,70, è un pannello interattivo e quindi attraverso il tatto è come dare un comando, un semplice clic, un doppio clic con un mouse avviene direttamente con la pressione della mano, quindi è molto facile da usare, molto immediata, ed è composta da un PC e da un videoproiettore che permette la visione a tutta chiaramente la classe. Sostituisce di fatto la vecchia lavagna. Va a sostituire, l'intenzione è proprio quella di sostituire la vecchia lavagna d'Ardesia. Perché? Perché la vecchia lavagna d'Ardesia una volta si usava per scriverci, far di conto, ma poi, come si sa e come si è sempre vissuto, andava cancellata, per cui il percorso veniva resettato, usando sempre un termine tecnologico, mentre la LIM permette di costruire il percorso, di salvarlo e di riprenderlo. La cosa bella è che alla fine di una serie di lezioni o anche di un percorso, no, fatto di tanti momenti, si può andare a vedere il punto di partenza e per cui valutare assieme da dove si è partiti e le conclusioni a cui si è arrivati, per cui rappresenta un ottimo strumento. Da quanto tempo è nelle scuole? È da diversi anni, è entrata in maniera massiccia nelle scuole. Certo, la storia della LIM è una storia che ha avuto anche là degli inizi un po' più difficili. Io mi ricordo che negli anni 90 sono stato il primo a usare una LIM e questo poi mi ha permesso anche di andare a Milano, a Firenze, a far parte di un'equipe che andava proprio a studiare come migliorare queste LIM per inserirle nel mondo scolastico. Non abbiamo ancora detto il nome. Scusate. No, è il tuo, no, è LIM. La LIM. LIM sta per lavagna interattiva multimediale, ecco, che è chiaramente la traduzione italiana di un termine ovviamente inglese. Sì, mi scuso per questo, avremmo molto spesso si dà per scontato. È una lavagna appunto in cui c'è il professore, chiaramente, che la usa come punto di partenza per la didattica, ci sono gli alunni. Proviamo a fare un esempio di lezione in classe, cioè arriva il professore di storia o di matematica. Ecco come sono io sono, insegno storia e filosofia, quindi ipotizziamo che io debba fare un percorso, ecco, l'età napoleonica, e quindi io sicuramente preparo una serie di immagini, una serie di documenti anche scritti da me o anche presi ovviamente dalla rete, da internet, e costruisco una lezione. Il bello di questa lezione è che non è un contenitore chiuso, perché la LIM permette di aprire, no, finestre continuamente, e chiaramente sono finestre frutto dell'interesse e della partecipazione dei ragazzi, e questo è forse ancora una volta uno dei motivi per cui la LIM sta diventando uno strumento principe per una didattica nuova, aperta, che sappia anche cogliere gli input che vengono dai ragazzi, per cui si sentono partecipi della lezione, non solo più fruitori passivi. Cioè non c'è più solo il professore che parla, che fa lezione, gli altri che prendono appunti, forse? No, no, no, cambia. Ovvio che il docente è ancora magister, è ancora colui che guida e conduce, però lascia questi spazi di interazione perché sono fondamentali, cioè molto spesso si prepara assieme anche il percorso, perché gli approfondimenti o i compiti da assegnare molto spesso possono essere anche, ebbene, tu di questa della campagna d'Italia di Napoleone mi curi questo aspetto, scusate, me lo approfondisci e lo presenti anche tu con le stesse metodologie con cui lo presento io. Facciamo il caso che uno non abbia capito e faccia una domanda: la differenza tra cisalpino e transalpino, restando in quel ecco, settore. Per esempio, si può in maniera simultanea anche usare la tecnologia per andare a rispondere a domande che nascono così spontaneamente, oppure si costruiscono anche ad arte, perché siamo sempre collegati a un'enorme enciclopedia, cioè il sapere, un tipo di sapere è chiaro che è a disposizione con un click, per cui la lavagna, essendo collegata ad internet, chiamiamo così, alla rete esterna, permette di avere una biblioteca infinita, dal manoscritto reso sotto forma di immagine a qualsiasi altra, un'intervista, ha una testimonianza, e questo arricchisce ulteriormente la didattica, ovviamente, e accorcia i tempi, perché le cose che bisognava andare a cercare in contempo. Sì, poi diciamo che aspetti positivi ne possiamo vedere anche, trovare anche nella capacità, no, di andare a stimolare anche quell'utenza, quegli studenti che magari sono un po' più apatici rispetto al classico libro, ma molto tecnologici, perché insomma studenti di seconda, terza generazione informatica, per cui sono molto più portati ad apprendere attraverso queste tecnologie che con l'uso del libro. Con questo non voglio dire che il libro deve essere abolito, bruciato, dimenticato, anzi io dico sempre che il piacere di sfogliare un libro è diverso della chiaramente ricerca su internet. Devono coesistere ancora, secondo me, entrambi, ed è una memoria storica il libro che vale la pena di mantenere ancora, perché cioè, ci vuole testa e ci vuole cuore, ci vuole la ragione, ma ci vuole anche il sentimento. Quindi qualsiasi disciplina, qualsiasi libro, se non viene approcciato con testa e con cuore, non dà tutto quello che deve dare, insomma, ecco. Certo, ci vuole la velocità nella risposta, ci vuole poi anche il tempo dell'approfondimento. Facciamo una breve pausa e poi torniamo a raccontare questa novità tecnologica. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'ufficio di pastorale scolastica. Baila, let me see you dance, baby. See you dance, baby. Come on. Adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila, boom boom. Sai cosa sexy, cosa sexy thing. luna piena. Yeah. Under the moonlight. Come on. Yeah. Baila. Yeah. Under the moonlight. Come on. Sotto questa luna piena. Yeah. Baila morena. Yeah, go on. Come on, girl. Yeah. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica. Riprendiamo il nostro percorso di questa puntata dal mondo della scuola con il professor Angelo Visentin, esperto di tecnologie, docente di storia e filosofia, quindi le due cose vedo che si possono sposare, insomma, la grande tradizione e il pensiero uniti anche alla tecnologia. La lavagna interattiva multimediale che viene utilizzata ormai da qualche tempo a scuola e che permette una maggiore interazione tra studenti e docente per tutte le materie, professore? Sì, per tutte le materie non c'è un limite, anzi, proprio la duttilità dello strumento permette alla matematica, alla fisica, qualsiasi disciplina di trovare degna, insomma, espressione, di trovare un degno strumento nell'utilizzo di questa LIM. Don Edmondo, che insegna religione, la usa la LIM o se è ancora tradizionale? No, tendenzialmente siamo tradizionali. Però non tutte le aule sono equipaggiate. E questo è un altro problema. Ecco. E quindi, avendo la possibilità, quindi fanno una sperimentazione in alcune classi, con alcune discipline in particolare, ecco, appunto perché non abbiamo tutte le classi equipaggiate di questo metodo. C'è da dire che, essendo la nostra una scuola molto grande, si parla di 75-77 classi, ovviamente ancora non è possibile avere una LIM in ogni classe. Il futuro sarà sicuramente questo, di avere una lavagna in ogni classe. Adesso ne abbiamo già una ventina circa all'interno della scuola e molto spesso, per permettere a tutti un utilizzo, una rotazione esiste, cioè si spostano le classi, mm-hmm. O si creano delle aule particolari, no? Chiamate così volgarmente multimediali, nelle quali fare lezione e dare a tutti la possibilità. Quanto costa? Ecco, un problema è questo, perché comunque se i costi si sono notevolmente abbassati, comunque per adottare un'aula di una LIM e con tecnologia recente, quindi proiettore a focale ultracorta, si parla, si viaggia intorno ai 1.800 euro, 1.900 euro, quindi ovviamente moltiplicata per è una spesa non indifferente, ecco. Sappiamo che ci sono molte anche altre spese che una scuola sostiene, non si può... Di questi tempi, insomma, in tempi di tagli è difficile. Ecco, dicevamo, la lezione cambia, evidentemente cambia il modo di fare lezione da parte del professore, da parte degli studenti e di tutti gli studenti, anche quelli che magari hanno qualche handicap. Sì, sicuramente è uno strumento che permette di avvicinare, di approcciare, no, la disciplina anche nei confronti di qualcuno che abbia qualche difficoltà, e per difficoltà si intendono i cosiddetti gap, quindi degli svantaggi, per cui la lavagna diventa uno strumento che semplifica, intanto fa compiere all'insegnante un'estrema sintesi, perché l'insegnante ovviamente utilizzando un mezzo così tecnologico deve nella sua mente già proporre una sintesi e quindi cercare di rendere molto chiaro un discorso che può essere complesso, e quindi lo sminuzza, no? lo spacchettizza. E questo ovviamente a un ragazzo con difficoltà non fa altro che agevolarne, no? L'avvicinamento, la comprensione. Ovviamente stiamo parlando di disabilità che non afferiscono alla visione, uh-huh. Ecco, perché è uno strumento prettamente votato alla visione, come la LIM, sarebbe un po' superflua. Però ovviamente sappiamo che esistono strumenti come scansionatori vocali, come barre braille attaccate a un computer, per cui insomma se anche non colgo l'immagine comunque riesco a seguire la lezione, a seguire il è contenuto. Indicatissima soprattutto quando si vuole fare anche dell'autocorrezione, cioè l'autocoscienza dell'errore, perché a video viene subito palesato l'errore. Io mi ricordo che le prime le usavo proprio con dei ragazzi con handicap, una sindrome di Down, ma il problema era quello di scrivere correttamente, e ovviamente la sottolineatura che fa il classico Word, no? Quando commetti un errore d'ortografia o non usi il verbo adeguato perché la A era priva dell'H, veniva subito sottolineato, e questo ha aiutato moltissimo questi ragazzi a imparare, no? Una semplice banale cosa, ma che aiutò tantissimo, mi ricordo, dei ragazzi. Certo, non è tutto oro quello che insomma sembra brillare in questa discussione, perché qualche limite ce l'ha anche ovviamente la lavagna, la LIM. Ecco, parliamo appunto dei possibili limiti o anche dei rischi magari nell'esaltarla troppo, no? Rispetto anche sì. al modo tradizionale di fare lezioni, ecco, di imparare. Il limite, dicasi anche rischio, è quello di andare a fare il cosiddetto copia e incolla, cioè io viaggio, esploro, utilizzo il sapere, ma semplicemente non per rielaborarlo, ma per incollarlo. Allora questo sarebbe la morte della lavagna, perché verrebbe meno ovviamente la metabolizzazione di questi contenuti se vengono solo copiati e incollati. Quello che vale la pena di continuare a ribadire è che usando la testa, usando la ragione, facendo sintesi di quello che si può apprendere, si può scoprire, è un percorso molto più strutturato, molto più solido rispetto al copia e incolla. Il copia e incolla rimane 5 minuti, 10 minuti, invece la sintesi, la rielaborazione dei contenuti esplorati rimane per sempre. Eh sì, quello è lo sforzo che poi ognuno deve fare, quindi qui se uno non ha voglia di studiare non ce l'ha l'IM o non l'IM, no? No, l'IM non l'IM, ho detto prima, ci vuole testa e sentimento, nel senso che ci vuole anche la passione per le cose. Ecco, il cuore dovrebbe venire, perché questo strumento ti apre e praticamente risponde anche a quelle che sono delle domande, delle curiosità, per cui ti rende partecipe e fa sentire la lezione qualcosa di costruito insieme, non più di imposto. Se questo avviene, ecco che si supera un limite, se ne apre invece molte possibilità, insomma. Ultima pausa e poi torniamo insieme ancora per parlare di tecnologie e anche di altre tecnologie dentro la scuola. Dal mondo della scuola. Ooh. beat is kinda hot, yo. Too late, my time has come. Send shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Ultima parte di questa puntata tecnologica dal mondo della scuola. La mia generazione ricorda ancora i gessetti e il gesso che sporcava i polsini per la gioia delle mamme. Invece adesso c'è la tecnologia che aiuta a non sporcarsi, ma soprattutto aiuta ad apprendere in modo diverso. Stiamo cercando di capirne qualcosa col professor Angelo Visentin, che certamente è stato tra i pionieri, ma magari non tutti i suoi colleghi sono così al passo. No, diciamo che ovviamente qualche riottosità o non utilizzo per motivi diversi, esiste. Ovviamente una LIM in classe ti porta, ti consiglia ad usarla, non sempre lo si fa in maniera continuativa, pedisseca, strutturata. Molto spesso può essere un uso estemporaneo oppure un non uso. Ecco, io faccio degli esempi, ne ho un paio in classe, ne ho ben due in due classi diverse, ma non tutti i docenti, i colleghi la usano. Ovviamente perché mi chiedo, perché per usare una LIM devi prima crearti, prepararti, strutturarti la lezione. Non è che la LIM con un click ti prepari la lezione, perché ti apre, è una grande come biblioteca. Uno deve preparare magari le fotocopie, gli schemi, eccetera, tale e quale. Anzi, come dicevo prima, la LIM ti obbliga a fare una sintesi molto più ampia, puntuale, e anche a capire quali sono le inferenze, quelli che possono essere i contributi, già contemplarli all'interno di questa lezione per dare maggior risalto e risposta. E voi non domandate, la ricaduta con gli studenti, come questa lezione poi può essere ricordata, può essere criticamente assunta e eventualmente riproposta e da lì ripartire per ulteriori approfondimenti? Il dato stesso, che una lezione può essere salvata, memorizzata e quindi sia costruita col contributo non solo del docente ma anche dei ragazzi, diventa patrimonio di tutti, perché sono gli appunti, sono la lezione a cui tutti attingeranno, perché ovviamente tramite una mail list, i nomi, le mail di tutti i ragazzi, poi ricevono il materiale a casa e se lo riguardano con comodo, oppure se lo prendono quando vogliono. Cioè, noi creiamo questo vale, scusi, anche nel caso in cui ad esempio uno assente per malattia, no? Soprattutto, soprattutto, cioè uno che non ha partecipato alla lezione comunque ha gli appunti, ha le slide costruite, ha il percorso in PowerPoint nato prima dall'insegnante e poi con i contributi che vengono dalla classe, e questo qua rimane. Cioè io trovo materiale che sto usando con la quinta l'anno scorso, lo sto riutilizzando con la quinta attuale, ovviamente partendo dalla situazione X e andando poi con i contributi di questi nuovi ragazzi a creare la lezione. La tecnologia corre negli ultimi anni, corre da non riuscire a starle dietro. Come potrebbe esserci un'evoluzione anche da parte degli studenti nell'interazione? Io penso, almeno così credo di interpretare, che la novità, ecco, se così possiamo chiamarla, anche se novità non è, sarà quella della scomparsa in un certo senso del libro cartaceo, perché è quello che ci impone ormai la spending review, e invece la comparsa del tablet, perché il tablet sta prepotentemente, no, si sta facendo il mondo scolastico. Perché? Perché il tablet permette di sfogliare un libro come se ancora il libro esistesse, quindi ricrea in parte il cartaceo, che, come dicevo prima, per non smentirmi, non vorrei mai che comunque scomparisse del tutto, proprio per il senso che ha, no, il libro. E questo tablet dovrebbe permettere un'interazione sempre docente-discente attraverso lo schermo grande, gigante della LIM, per cui si dovrebbe, nell'ottica, negli sviluppi, insomma, che si sta prendendo a scuola, riuscire a fare questa didattica nuova tablet LIM che dialogano simultaneamente insieme, per cui la lezione si amplia perché il singolo contribuisce con il tablet, risponde a quesiti in tempo reale, si leggono le sue risposte sulla LIM e la LIM è visibile a tutti, per cui il singolo schermo del tablet viene ingrandito a tutti quanti. Da studente di generazione precedente, e il compito in classe? Il compito in classe chiaramente rimane ancora un compito, se vogliamo, tradizionale, nel senso che o la verifica rimane ancora abbastanza tradizionale. Per esempio è interessante la modalità di correzione della verifica, perché può essere fatta simultaneamente proiettando appunto lo schema del compito con le soluzioni, no? Per cui diciamo che il feedback è puntuale, rivolto a tutti, e non c'è più il caso singolo che va a vedere propria verifica, a dire ma io qua conta quanto ho fatto per vedere subito il voto, perché molto spesso i ragazzi sono curiosi solo per quanto riguarda la valutazione, certo, cosa ho preso, non cosa ho sbagliato, mentre la LIM permette di fare una bella correzione rispetto alla verifica e rimane là, e magari la prossima volta su stesse questioni si può andare a vedere il miglioramento, quante ne avete sbagliate, questa è la vostra performance, andiamo a vedere se a distanza di un paio di mesi l'altra performance si equivale oppure migliora. E questo una trasparenza valutativa e anche un'autovalutazione che avviene da parte dei ragazzi. Poi sì, la trasparenza, ricordo da studente, insomma, ma perché a lui ha dato di più che a me? Perché poi questo evidentemente poi nei compiti di matematica, dove c'è un'oggettività di risultato, su altre materie insomma la cosa è sempre più interpretabile. Sì, sì, può essere questione di lana caprina nel momento in cui uso degli sostantivi rispetto ad altri sostantivi, però insomma anche l'italiano fluido o termini particolari che sono, non so, in filosofia che si usano, chiaramente si vedono subito e uno capisce perché sette, capisce perché se sei. Ha capito. Direi proprio di sì. E questo è lo scopo anche del professore e della scuola. Allora, abbiamo scoperto per me questa novità importante tecnologica, e chissà cosa succederà fra un anno, come si sarà evoluta. Grazie allora al professor Angelo Visentin del Duca degli Abruzzi per questo intervento e buon lavoro. Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. E grazie a Don Edmondo che mi ha supportato in questa... Abbiamo ascoltato, appreso. E quindi anche un impegno a fare in modo che le nostre scuole, ecco, nonostante i tagli, ecco, si aprono a questa novità, diventa anche un'occasione per una didattica sempre più efficace. Grazie a voi per averci seguito, appuntamento col mondo della scuola fra 7 giorni. Dal mondo della scuola, programma a cura dell'Ufficio di Pastorale Scolastica.